E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Rosa Purpurea di Franco d'Assisi. Eccoci qua, buon anno a tutti dalla Rosa Purpurea, Franco d'Assisi in studio per questa puntata speciale tutta dedicata al 2009 del cinema e del cinema italiano in particolare. Staremo insieme nella prossima ora e vi faremo ascoltare le voci di tanti, tantissimi dei grandi protagonisti attesi a un 2009 di successi nelle sale cinematografiche. Alcuni nomi, sentiremo le interviste esclusive tutte proiettate proprio sul 2009 con Carlo Verdone, Giovanna Mezzogiorno, Luca Argentero, Pupi Avati, Michele Placido e ancora tanti altri. Ascolteremo anche fra poco il direttore di Chuck, Piera De Tassis, che c'era già venuta a trovare nell'ultima puntata del 2008 per così raccontare quelli che sono i film più attesi da oltreoceano, soprattutto in questa corsa che ormai va dritta dritta verso la notte degli Oscar. Avete sentito in apertura una canzone natalizia, certo, ma che finisce con questo piccolo omaggio al Happy New Year, al nuovo anno felice che si augura a chi si incontra. Ebbene, noi abbiamo voluto triplicare questo augurio perché ci sembrava un po' squilibrata la situazione auguri in questa canzoncina. E poi le note che ci stanno accompagnando sono quelle della Marcia di Radetzky, Concerto di Capodanno, uno dei classici viennesi. E allora, con questa atmosfera festosa e festiva, noi ci inoltriamo nel 2009 del cinema. Una puntata speciale, dicevamo, strutturata in tre parti. La prima più corposa, dove avremo già modo di ascoltare delle interviste ai protagonisti. Avremo anche una escursione durante il corso della trasmissione nei film più attesi dell'anno per quanto riguarda i blockbuster americani, i grandi colossal che dovrebbero arrivare, anzi arriveranno nelle nostre sale durante il 2009. Ma procediamo con ordine, cominciamo con il fare il punto con il direttore di Chuck, Piera De Tassis, sui film più attesi dell'anno che è appena cominciato. I film più attesi, chiaramente, per quanto concerne i grandi autori, i grandi attori, i grandi protagonisti hollywoodiani. Piera, innanzitutto buon anno anche a te. Qual è il film che aspetti di più in questo inizio di 2009? Beh, io ho già il mio cult del mese di febbraio. Fra quello che ho visto, direi che no, ce ne sono un paio che ci attendono. Io dico febbraio, che stiamo lavorando su febbraio, naturalmente tornerò anche un po' indietro adesso perché mi vengono in mente Frost Nixon e The Wrestler, che però credo sia stato spostato ulteriormente di uscita. Comunque Frost Nixon, lo sapete, credo che tu ne abbia parlato già. L'abbiamo visto, tra l'altro, a Sorrento in anteprima, film geniale. Sì, veramente straordinario, ve lo consiglio. C'è un Frank Langella, tra l'altro, che va dritto probabilmente verso l'Oscar, quello sì. Più a ridosso, io attendo molto, naturalmente, il ritorno della coppia del Titanic, che Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nel film di Sam Mendes, Revolutionary Road, che al contrario di quello che tutti cerchiamo di titolare, non è un film romantico, ma è una commedia sentimentale, coniugale, anche difficile, anche triste, ambientata negli anni 60, però che ha già ricevuto buone recensioni. E che cosa attendo? Subito, subito, dovete andare a vedere, secondo me, due film, che sono Balzer with Bashir, che esce subito il 6 gennaio, che è lo straordinario cartoon israeliano su un tema forte, difficile, che è la strage di Sabra Shatila. Diciamo che Piera piacerà a chi ha amato Persepolis, per intenderci. Chi ha amato Persepolis, esatto, si piacerà, chi ha amato Persepolis. Ecco, non vi attendete il cartoon buonista, allegro, questo è un cartoon però straordinario proprio nella realizzazione. Una commedia che consiglio a tutti, Un matrimonio all'inglese, Easy Virtue, un straordinario gioco di Stephen Elliott, che ricordate era il regista di Priscilla, La regina del deserto, ritorna dopo un po' di cose non buone con questo gioiellino tratto da Noel Coward, con Jessica Biel, Christine Scott Thomas, Colin Firth, veramente strepitosi, così come strepitoso il ritmo di questa commedia. Io aspetto, personalmente anche Italians di Giovanni Veronesi, con Riccardo Scamarcio, Sergio Castellitto e Carlo Verdone, un cast direi da brivido, un cast maschile da brivido su un tema che insomma, ha fatto la fortuna di tanta commedia all'italiano, no? gli italiani all'estero. E per rimanere vicini vi dico anche che siamo in attesa di Milk di Gus Van Sant con Sean Penn, un tema attualissimo, soprattutto adesso che si assiste a questo attacco contro la depenalizzazione dell'omosessualità. È un film quasi militante, racconta la storia di Milk, questo militante, uno dei primi militanti omosessuali a favore della causa omosessuale, che poi finì ammazzato. Naturalmente Sette anime di Gabriele Muccino con Will Smith, con Rosario Dawson, successo in America, critiche controverse, non l'ho ancora visto quindi non so dirne di più, ma so che il tema è molto, molto impegnativo, insomma una storia quasi di grande senso di colpa e lento suicidio correlato. E poi ho dimenticato qualcosa, penso, ho dimenticato il curioso caso di Benjamin Mott. Che avevi citato prima, esatto. Sì, che è il film che aspetto di più, come sempre avevo dimenticato di dirlo, perché è con Brad Pitt e Kate Blanchett ed è diretto da David Fincher. Con questo invecchiamento al contrario di Brad Pitt, di cui insomma si è già parlato tanto e insomma io penso che sarà un film, guarda faccio una previsione, qua se mi sentono non saranno contenti, penso che sarà un film forse difficile per il botteghino così sulla carta, ma sarà probabilmente un film straordinario per la critica. E tanti ce ne sono, guarda che è veramente guardate, lo dico a tutti, che ci aspetta un anno molto molto molto buono di cinema. Per favore, mettetevi comodi, mettete giù la console, tutt'al più usate PlayStation 3 per vederli in Blu-ray, ma i DVD e poi andate al cinema. Assolutamente, allora noi accogliamo con gaudio il consiglio di Piera, perché e tra l'altro sono tempi duri, ragazzi. No, assolutamente. Che cosa meglio del cinema può farci sognare, ma anche soffrire, ma anche piangere, perché è bellissimo piangere, io trovo, per dimenticare che quest'euro qua non vale più niente. Certo, no? E poi anche aggiungerei un altro verbo, anche farci riflettere, che è una cosa molto anni 70, però negli ultimi tempi stiamo vivendo un Natale cinematograficamente di riflessione, esatto, come pochi negli anni recenti, sì, no? Con film veramente che invitano, pur non rinunciando allo spettacolo, alla tensione emotiva, a qualche lacrima, a qualche sorriso, però ti fanno uscire con un ragionamento in testa. Questa mi sembra un auspicio per il 2009, insomma, che sia un anno così. No, ma proprio bravo, è centrato. E la caratteristica di questo Natale, che non è un Natale di spensieratezza e basta, naturalmente poi, perché anche il cartoon Madagascar comunque è un cartoon proprio di respiro anche, non so come dire, politico quasi, un film, e qua rappresenta un po' proprio l'era di Obama, no? Cioè, ogni personaggio, ogni caratterizzazione porta di sé, dentro di sé un piccolo mondo, una diversità, una minoranza, e poi ci sono i newyorkesi, quella cosa splendida, il newyorkese che è antipatico, cattivo da tutte le parti, però alla fine è uno che sa resistere, uno che sopravvive nelle condizioni peggiori, insomma ogni film, e quest'anno è così variegato, e forse non per caso il ripiegamento della comicità più farsesca, perché forse la gente ha bisogno comunque di ridere pensando, immaginando, capendo che cosa sta succedendo intorno a sé. Grazie a Piera Dietassis e buon 2009. Grazie a voi, buon 2009 e buon tutto, buon cinema, ma soprattutto una bella vita. E con l'augurio di Piera Dietassis, direttore di Chuck, un augurio che sottoscriviamo in pieno, che le cose siano buone, ovviamente ben al di là del cinema. Noi andiamo a fare un altro passo in questa nostra puntata speciale di Capodanno, così come avevamo fatto nella puntata di Natale, abbiamo voluto raccogliere in un servizio speciale i film che hanno raccontato, che hanno avuto come sfondo la notte di Capodanno o il giorno dell'anno nuovo, servizio speciale che è stato curato dalla nostra Chiara Pizzimenti. Non è perché mi sento solo e non è perché la notte di Capodanno, Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile. Dolci parole quelle di Billy Crystal, che in Harry ti presento Sally dichiara il suo amore a Meg Ryan proprio la notte di Capodanno. Una festa newyorkese come quella storica Times Square, sfiorata da Tom Hanks quando Forrest Gump incontra di nuovo il tenente Dan. Ehi, ma noi ci siamo appena state, quella è Times Square. Non è fantastico il Capodanno? Si ricomincia tutto dall'inizio. Capita a tutti una seconda occasione. 3, 2, 1, buonanotte! Nell'ultimo Capodanno, film del 98 di Marco Risi con Monica Bellucci, si raccontano le vicissitudini durante l'ultima notte dell'anno di una varia e grottesca umanità in un condominio romano. C'è anche un tradimento come quello di Alessio Boni ai danni di Giovanna Mezzogiorno nella Bestia nel cuore, e il povero Boni finisce suicida proprio la notte del 31 nella Meglio Gioventù, dopo essere passato a casa. Buon anno, mamma. Ma io lo sapevo che venivi. Solitario il San Silvestro di Jack Lemmon nell'appartamento di Billy Wilder. Lui ha già stappato la bottiglia di champagne quando Shirley MacLaine arriva a salvarlo. Da speculatori il primo dell'anno per Dan Aykroyd ed Eddie Murphy, che in una poltrona per due attendono l'apertura della borsa per rovinare i fratelli Duke. Cambio di secolo e di millennio in due film. È il 31 dicembre 1999 in Last Night con David Cronenberg nel ruolo di attore, e in Strange Days, film fantascientifico di Catherine Bigelow, con tumulti sociali e una nuova droga che permette di rivivere a livello cerebrale le esperienze degli altri. Tragico e non poteva essere altrimenti il Capodanno di Fantozzi. La festa aziendale non era stata bellissima, ma il ragioniere, la moglie Pina e i colleghi in strada si stavano divertendo, almeno finché la bianchina di Fantozzi non è stata colpita da un televisore, roba vecchia lanciata, come da tradizione, da una finestra. Attenti sotto! Buttate, buttate! Buttate! Nuova, roba nuova! Guardando! Beh, io quasi quasi la lascio parcheggiata qui. E allora i film sul Capodanno, il Capodanno nel cinema, noi entriamo nel vivo invece dell'anno che verrà, anzi che è già arrivato, il 2009, del cinema italiano. Come dicevamo in apertura di trasmissione, tantissimi ospiti e tanti protagonisti dei film che potrete vedere da qui a tutta la primavera per quanto riguarda il nostro cinema. E allora noi cominciamo con gli attori che da sempre sono il motore del cinema, sono i visi, le voci, gli affetti quasi che il pubblico prova e che spesso sono la molla per entrare in una sala cinematografica. Gli attori del cinema italiano, il 2009 ne avrà tanti fra quelli che hanno lavorato molto negli ultimi anni e fra quelli che magari da qualche tempo non vediamo più. Però noi abbiamo voluto concentrarci su alcuni personaggi. Nella puntata speciale di Natale, nella chiacchierata con Piera De Tassis, avevamo eletto, per così dire, Luca Argentero come scommessa del cinema italiano per il 2009. Potrebbe essere davvero il suo anno, potrebbe essere l'anno di una consacrazione per un attore venuto dalla televisione, dal talk show, spesso additato come creatore di fuochi fatui. E invece, dopo il Grande Fratello, Luca Argentero ha saputo pian pianino inserirsi nel cinema italiano grazie anche al lavoro di Ferzan Özpetek, che lo ha voluto in Saturno Contro, gli ha regalato il ruolo che lo ha un po' sdoganato agli occhi del cinema. Lui è stato bravo, serio, umile, ha saputo lavorare. Solo un padre, che ancora in alcuni cinema italiani è stata un po' la sua affermazione, un ruolo da protagonista intenso e importante. Adesso si apre un 2009 di grandi film, è nel cast del Grande Sogno, il film sul 68 di Michele Placido, che è uno dei film più attesi del cinema italiano di quest'anno. Tra l'altro sentiremo più tardi l'intervista con Michele Placido. Ed è anche nel cast di un film che si intitola Diverso da chi, un film diretto da Umberto Carteni, un giovane in questo caso, che racconta in chiave di commedia la storia di Piero, appunto Luca Argentero, giovane politico gay dichiarato, siamo in un paese non definito del nord o forse del nord-est. Per equilibrare la questione, il partito politico di riferimento progressista di centrosinistra, non si fatica a vedere alle spalle di questo film e dell'ironia di questo film il Partito Democratico, viene emessa una centrista moderata, fino a quando i due non vengono in contatto, che è appunto interpretata da Claudia Gerini. Insomma, da quello che abbiamo potuto vedere in anteprima, questo film ci dà un po', ci rende un po' il clima della migliore comunità commedia all'italiana, quella nella quale ridendo e scherzando si stigmatizzavano, si sottolineavano, si prendevano un po' a burla i difetti del bel paese, anche quelli dell'attualità e della politica. Insomma, Diverso da chi è uno dei film che siamo sicuri sarà una delle prime sorprese di questo 2009. Sarà interpretato appunto da Luca Argentero, da Claudia Gerini e da Filippo Nigro, un trio di attori consolidati o giovani, ma comunque ben amalgamati. E allora noi adesso li ascoltiamo uno dietro l'altro, cominciando dalla nostra scommessa per il 2009, Luca Argentero. Era la prima volta che rimanevamo da soli a te. Io pensavo che non ce l'avrei fatta. Ti voglio dare il numero della babysitter De Martini. Permesso? Scusa, mi ci ho messo un po'. Che bella casa, l'hai vista tu così? Mia moglie. Guarda, il mio punto motivo d'orgoglio rispetto a quest'anno è stato di interpretare tre personaggi che sono così distanti l'uno dall'altro, ed è insomma la sfida, è l'ambizione di tutti, avere la fortuna di lavorare in modo continuativo e di affrontare tre storie veramente molto diverse dall'uno dall'altro, sia come personaggi, sia come tematiche, sia come toni, dal drammatico alla commedia, alla commedia sentimentale, io in realtà i riscontri li sto aspettando, insomma, Solo un padre è partito bene, questi altri due film sono due grandissime scommesse. Io sono salito da poco sul patibolo del giudizio, quindi mi aspettano tempi, spero, felici, ma non facili, insomma. Il 2009 di Claudio Gerini, oltre a questo film che esce, se non sbaglio, a marzo. Ecco, altre cose in progetto, auspici? Ma c'è un'uscita, ci sono altre uscite, due uscite, una il 20 febbraio di un altro esordio, diciamo a lungometraggio, il film di Iago Panini che si chiama Aspettando il sole. Un film corale, commedia dark, totalmente altro genere, e poi invece un'altra commedia corale di Fausto Brizzi, si chiama Ex, ne uscirà il 7 febbraio, quindi... Un mese forte. Sì, febbraio-marzo ci sono varie uscite, adesso sto lavorando a un altro film, ma non so quando uscirà, quindi parliamo di questi. Sto girando adesso, da due giorni, un film con Cristiana Capotondi, la regia di Lazzotti, si chiama Dalla vita in poi, è la storia di un carcerato e una ragazza che gli scrive delle lettere che si incontrano in un carcere. E poi devo fare una cosa per la Rai, torno a fare una cosa in televisione molto bella a marzo. È un film secco. Ciao. Hai trovato il lavoro? No. Ho fatto dei colloqui, ma sono un po' vecchia per fare l'apprendista. E questi li hai fatto per il pub? No, questi sono per noi. Nei biscotti ci metto l'uvetto e le mandorle. Tutte e due. E quello che avete appena sentito è un estratto da uno dei film più celebri, fra quelli interpretati da Giovanna Mezzogiorno, una delle attrici ormai assolutamente affermate e consolidate del cinema italiano più recente. Ancora una volta era un film di Ferzan Özpetek, La finestra di fronte. Ferzan Özpetek non è che azzecchi sempre tutti i film che fa, molti sono stati molto belli e molto riusciti, altri un po' più, come dire, farraginosi. Certo è che Ferzan Özpetek è uno dei più grandi lanciatori di talenti o consacratori di talenti cinematografici che il nostro cinema abbia in questo momento, in questo è un grande patrimonio perché è un grande direttore d'attori. Giovanna Mezzogiorno, dicevamo, c'è anche lei nel 2009 del cinema italiano e c'è con almeno due film molto importanti. Uno si intitola Vincere, è un motto di epoca fascista, come potete immaginare, racconta infatti la storia del personaggio di Ida Dalser, la donna dalla quale Benito Mussolini ebbe un figlio segreto, Mussolini che sarà tra l'altro interpretato da Filippo Timi, un altro degli attori che amiamo del nostro cinema contemporaneo. Vincere segna il ritorno in sala del grande Marco Bellocchio, ma non è l'unico film in cui vedremo Giovanna Mezzogiorno, che sarà invece impegnata ancor prima in un film sul terrorismo, sugli anni di piombo italiani, esattamente sul gruppo di Prima Linea. Il film si intitola Miccia Corta e segna proprio l'inizio di questo nuovo anno foriero di successi per Giovanna Mezzogiorno, che ascoltiamo qui alla Rosa Purpurea. Ma guarda, io il 2009 lo inizio a febbraio girando il film di Renato De Maria con Riccardo Scamarcio su tratto da Miccia Corta di Sergio Seggio su Prima Linea, quindi non è un'altra storiella così all'acqua di rosa. Però è un bellissimo film, una bellissima sceneggiatura, è un tema, insomma, che bisogna avere il coraggio di affrontare. E sono contenta di lavorare con Renato, molto contenta di lavorare con Riccardo. Credo che comunque possiamo formare una coppia inedita e comunque piuttosto curiosa, insomma, piuttosto che può avere anche una sua forza. Poi, ripeto, la sceneggiatura è scritta da Petraglia, è molto bella. E vedremo, così inizia, poi dopo su questo inizio non so, vedremo come si andrà avanti, non ho altri progetti per il momento. Grazie. Grazie a te. E dopo gli attori cominciamo a dare spazio ai registi, che costituiranno un po' poi l'ossatura del seguito della trasmissione. Abbiamo detto tanti registi giovani o anche molto importanti e molto consolidati avranno un nuovo film nel 2009. Sentiremo nel corso della trasmissione le voci di Pupi Avati, di Michele Placido, di Davide Ferrario, ma qui vogliamo soffermarci su un autore del cinema italiano davvero particolare, una di quelle nicchie surreali di cui il cinema italiano si è dotato negli anni, che poi forse ha un po' dimenticato per strada, ma che sta ritrovando una sua grande vitalità. Stiamo parlando di Maurizio Nichetti. A cavallo fra gli anni 70 e 80 è stato uno degli innovatori del cinema italiano, partendo forse un po' dall'animazione come grande scuola, egli stesso diventato personaggio animato nei suoi film, Ratataplano, Fatto Splash, li ricorderete, i più clamorosi, che erano successi davvero importanti in quegli anni. Il personaggio di Maurizio Nichetti praticamente non parlava mai, era figlio del cinema muto, delle grandi comiche e anche appunto un po' dei personaggi animati, tanto che in Volere Volare il personaggio di Nichetti era proprio d'animazione, un po' sull'onda della Roger Rabbit disneyano. Ebbene, Maurizio Nichetti è, dicevamo, pronto a un grande ritorno, perché il 26, il giorno di Santo Stefano, è stato regista di un TV movie intitolato Dottor Clown, una sorta di Patch Adams italiano, e adesso è pronto con una nuova produzione televisiva, un serial per ragazzi che ha delle grosse ambizioni. Ma la nostra Barbara Righini, che lo ha intervistato al telefono, è riuscita anche a carpirgli qualche auspicio, qualche sogno nel cassetto di carattere cinematografico. Sentiamo Maurizio Nichetti cominciando proprio con il progetto di un nuovo serial intitolato Teen Days. Ma guardi, questo è un progetto per la Rai, sono 26 episodi di mezz'ora circa, 26 minuti, 26 per 26, ed è un cartone animato seriale imperniato su un gruppo di ragazzi, diciamo preadolescenti, adolescenti, che formano un complesso musicale all'interno di una scuola di musica. Per cui è la prima volta che un tema del genere viene trattato in animazione, ecco, diciamo che l'avevamo già visto dal vero in High School Musical, anche Anna Montana, un altro telefilm per adolescenti fatto dal vero, ma in animazione non era mai stato fatto. Dovrebbe essere consegnato a fine 2009, per cui ci stiamo lavorando da un anno e mezzo, e circa fra un anno e mezzo sarà pronto e sarà trasmesso dalla Rai. Che cosa si aspetta dal 2009 dal cinema italiano, o comunque quali sono i film ai quali ha pensato e aspetta di vedere indipendentemente dall'animazione? Io personalmente, come tutte le persone che fanno questo mestiere, attendo sempre di vedere i miei progetti, cioè nel senso, io ho un paio di progetti nel cassetto, spero che nel 2009 vengano a maturazione e che poi vengano fatti per il cinema o per la televisione. Al momento francamente per me non ha una rilevanza. Spero di riuscire a portarli in porto e di andare avanti a lavorare secondo quel mio genere di cinema che implica un realismo mischiato alla fantasia. Può anticiparci qualcosa di questi progetti che ha nel cassetto? Non ho titoli e non ho produzioni con delle date di partenza precise. Cioè, a me per esempio sarebbe piaciuto da anni fare un film ancora misto cartone animato e davvero, ecco, un film alla Volere Volare, per intenderci. Per tanti anni ho accantonato il progetto perché non c'erano i presupposti per poterlo fare, spero che nel 2009 maturino le condizioni per dare un seguito a quella storia. Ma tutto quanto, Giuda è traditore, cioè sanno la conosce prima i fatti, Giuda avrà avuto una ragione per fare una cosa del genere, no? No, per soldi. Perciò, non ha ragione, scusa. Basta che facevano nascere ricca e già si evitava tutta questa muina, questa cosa, l'uccisione, il tradimento, ecco, lasciamo sta. Perché a me, per esempio, che chiedeva a casa, la moglie ogni volta, Giuda, tu devi andare a lavorare, Giuda, padrone di casa, la luce, l'acqua, per dire, il telefono. A un certo punto chiede tutte queste cose, tu non puoi più essere da casa, non puoi più essere da casa. Sai, visto 30 denaro in mano, hai detto, ma come non importa, come metto a posto la famiglia. Lo strepitoso Massimo Troisi, che raccontava così e difendeva così il ruolo di Giuda nella ben nota disputa con Gesù. Era Ricomincio da tre, appunto il film di Massimo Troisi. Perché abbiamo voluto aprire in questo modo questa seconda parte della Rosa Purpurea speciale Capodanno? Perché Giuda sarà ancora al centro di uno dei nuovi film del 2009 in Italia. E anche questa volta in qualche modo si cercherà di giustificarlo, di difenderlo, quantomeno di trovarlo. Sì, perché nel film Tutta colpa di Giuda di Davide Ferrario praticamente nessun carcerato vuole interpretare il ruolo di Giuda in un musical che appunto si sta allestendo nel carcere delle Vallette di Torino. Tutta colpa di Giuda sarà quindi il lavoro che ci riporterà sul grande schermo Davide Ferrario dopo i successi ormai non più recentissimi di Se devo essere sincera e Dopo mezzanotte. Ancora una volta Ferrario riesce a raccontare con intelligenza, con indipendenza di sguardo, una Italia diversa e controversa. Ma con Davide Ferrario abbiamo parlato, oltre che del suo film, degli auspici sul 2009 del cinema italiano. Ascoltiamolo. Ma io, se voglio mettere tutto insieme, al di là così dell'aspetto personale, mi auguro che questo film che ho fatto, per cui sono responsabile, cioè, continui a testimoniare quello che è venuto fuori dall'anno scorso, cioè dall'anno scorso, da questo 2008, vale a dire un cinema italiano che, oltre a essere rinato in termini numerici, questa è una tendenza che si vedeva da anni, sta ricominciando a fare cinema, cioè non a limitarsi alla tematica della famiglia, della crisi della famiglia borghese che questi ultimi anni abbiamo visto un po' in tutte le salse, ma soprattutto lavora su un cinema d'immagine, al di là del chiaro impatto sociale e politico. Gomorra, a me e il Divo mi piacciono perché sono film d'immagine, sono film di registi. Io ho sempre preferito un cinema d'immagine a un cinema di parola o di tematiche. Ecco, spero che Tutta colpa di Giuda vada a inserirsi in questa direzione qua, e ovviamente mi auguro che sia fortunato almeno una parte di quanto sono stato fortunato in questi film. Va bene, ho capito. Facciamo così, ti racconto una storia che comincia a Bologna e finisce a Novellara. Il giorno è il 2 agosto, il giorno della strage. Noi sappiamo che tu quel giorno hai noleggiato una macchina da Bologna a Roma. A casa tua abbiamo trovato un vestito che è stato comprato a due passi dalla stazione. Il commesso si ricorda di aver venduto quel vestito ad un signore impolverato, stracciato, e che diceva di essersi salvato per miracolo. Ora me lo spieghi che cazzo ci stavi a fare tu quel giorno a Bologna. Stavo aspettando il cliente che si doveva comprare un appartamento a Roma. Ho pure dato una mano a tirar fuori la gente dai maceri, con ste mani. È un passaggio chiave di Romanzo criminale, il bel film del 2005 di Michele Placido, che ci aiuta a passare su un altro regista che ha scelto la chiave dell'impegno come chiave espressiva di questo 2009. E dopo i carcerati in musical di Tutta colpa di Giuda di Davide Ferrario c'è il grande sogno di Michele Placido, e quel grande sogno che era il sogno di una vita migliore, di rapporti fra le classi sociali più equi, il grande sogno che ha animato le lotte del 68. E proprio su questo grande sogno si incentra il nuovo film di Michele Placido, con un cast importante. Oltre a se stesso, che oltre regista è anche attore, ci sono Riccardo Scamarcio, Luca Argentero, Jasmine Trinca, ma l'elenco è ancora molto molto lungo. Tantissimi, proprio come il Romanzo criminale, gli attori che hanno dato il loro ok alla partecipazione a questo che si preannuncia come un vero e proprio film collettivo, e anche come uno dei film più attesi in assoluto della stagione del cinema italiano. Il 68 quindi, anche come chiave autobiografica, perché in questo film c'è un personaggio che è quello appunto interpretato da Riccardo Scamarcio, che è un po' ispirato allo stesso Michele Placido all'epoca dei fatti giovane poliziotto. Jasmine Trinca vestirà invece i panni di una brava ragazza di estrazione cattolica che prendeva parte alle manifestazioni e alla contestazione. Scattò la scintilla fra questi due personaggi, diciamo così, opposti per quanto riguarda il fronte politico delle lotte di quei giorni. Perché abbiamo messo Romanzo criminale prima di parlare del grande sogno? Perché È un percorso quello che Michele Placido ha intrapreso, che lo porterà tra l'altro a fare un film, il primo film sulla strage di Piazza Fontana. E questo è il prossimo progetto di Michele Placido, ci sta lavorando in fase di sceneggiatura con Rulli e Petraglia. E quindi, come dire, è un Michele Placido che sempre più ha deciso di raccontare le grandi svolte, anche drammatiche, della storia della società italiana. Michele Placido, che ai nostri microfoni ha descritto così il momento del nostro cinema. Stiamo andando molto bene, lo dicono anche qui i nostri distributori. Penso che stiamo sulla strada giusta, però bisogna lavorare ancora con tanta umiltà, perché non bisogna neanche, come dire, accontentarsi degli incassi dei film comici. Bisogna un po' potenziare il cinema drammatico, nel senso del cinema intenso, ecco, in quello in cui si approfondisce molto anche l'aspetto drammaturgico, ma anche l'aspetto sociale, utilizzando però i canali commerciali. Qui vedo che ancora da parte delle grandi distribuzioni sono un po', c'è molta timidezza, puntano ancora, ahimè, soltanto sui film comici. In questa puntata speciale della Rosa Purpurea, appuntamento altrettanto speciale con una delle nostre rubriche, Trailer USA, che ci permettono, come chi ci segue spesso sa, di anticipare un po' quelli che sono i film che arrivano nelle sale americane e che poi inevitabilmente troveremo anche in Italia, con il suono dei trailer originali. E in questa puntata speciale vogliamo proprio gettare un ponte sul 2009, su quelli che sono i titoli più attesi del 2009 anche in America. E qui con noi per farlo Micaela Bellisario. Ciao Micaela. Ciao Franco. Dicevamo quindi puntata speciale, 5 grossi film in uscita l'anno prossimo, che vi racconteremo con i suoni originali fra poco, ma sono ovviamente centinaia le pellicole che vedranno la luce nel 2009 in America. Molte sono ancora in post-produzione, in lavorazione, come per esempio il nuovo film di Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, o il nuovo film di Clint Eastwood, The Human Factor, e perché no, anche il nuovo lavoro di Gabriele Muccino, What I Know About Love, Muccino che è nelle sale americane invece in questi giorni con il suo Seven Pounds, il suo secondo lavoro americano, ancora una volta con Will Smith, che sta combattendo al botteghino con Yes Man, con Jim Carrey, che tra l'altro arriverà nelle sale italiane molto molto presto. E allora, dicevamo, Micaela, abbiamo messo insieme qualche proposta, soprattutto del genere, diciamo così, avventuroso, fantasy, che è poi quello che muove il botteghino davvero. Certo Franco, abbiamo messo insieme un bel po' di titoli, ma prima di passarli in rassegna almeno li diciamo. Sono Harry Potter e il Principe Mezzosangue, in uscita il 17 luglio per la gioia di tutti i fan del maghetto, Angeli e Demoni con Tom Hanks, Star Trek di J.J. Abrams e X-Men The Wolverine, in uscita a primavera. Cominciamo allora con il maghetto, con Harry Potter, forse il film più atteso, uno sicuramente dei più attesi di quest'anno. Sì, infatti la sua uscita è slittata dallo scorso agosto, lasciando i fan a bocca asciutta. Il film vede ancora Daniel Radcliffe e stavolta vede anche Helena Bonham Carter. È il sesto film della saga del maghetto. La trama, Franco, un po' complicata. Diciamo solo che nella sua aula Harry trova per caso un manuale appartenuto a questo misterioso Principe Mezzosangue, che è un esperto pozionista, ideatore di diversi incantesimi, anche oscuri. Every day, every hour, this very minute in fact, dark forces attempt to penetrate these walls. Le suggestioni sonore di Harry Potter, il Principe Mezzosangue, dal 17 luglio nei cinema, peraltro la trama è piuttosto ben conosciuta dai milioni di lettori del libro, quindi non c'è moltissimo da anticipare, così come milioni di lettori ha avuto anche il sequel del Codice da Vinci, esce a maggio, questo seguito cinematografico, l'attesissimo Angeli e Demoni, basato sull'omonimo bestseller di Dan Brown e ancora una volta per la regia di Ron Howard. Esatto, protagonista è ancora Tom Hanks, che riveste i panni del professore di simbologia religiosa dell'Università di Harvard, Robert Langdon, e scopre ancora una volta che forze demoniache non si fermeranno davanti a niente e nessuno, neanche davanti al più efferato delitto, pur di conseguire i loro obiettivi. E il trailer comincia con l'elezione del Papa in Vaticano, molto evocativo. Hundreds of thousands are gathered in St. Peter's Square for conclave. It is on this night in Vatican City that an ancient ritual is taking place. The new pope is yet to be selected as we see the black smoke coming from the chimney of the Sistine Chapel. The entire world is watching and waiting. Which is why this is the perfect moment for our revenge. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its mission. Fantascienza questa volta, fantascienza di quella storica, perché come avrete forse riconosciuto c'è sotto la sigla di Star Trek, la saga fantascientifica più amata da milioni di appassionati. Oltre alla TV, la serie ha avuto sul grande schermo la bellezza di 10 film. Questo esce a maggio per la regia di J.J. Abrams e, diciamolo subito, c'è un tentativo che è quello di abbattere la barriera che è sempre esistita, quasi un derby fantascientifico tra i fan dell'Enterprise e quelli di Star Wars. Insomma, un film forse per tutti gli appassionati di fantascienza, costato ben 150 milioni di dollari. Sì, il film promette molto bene perché torna indietro nel tempo e mostra la primissima avventura dei mitici Kirk, Spock e compagnia, come dire, si torna indietro per andare avanti. Il trailer è assolutamente suggestivo, qua vediamo un dottor Spock ancora piccolo, avrà 10 anni forse, che viene inseguito da un extraterrestre e da qui parte tutta l'avventura. What is your name? My name is James Tiberius Kirk. Un prequel quindi per Star Trek, per capire come stavano le cose prima che Spock fosse Spock e Kirk fosse Kirk. E allora, chiusura in bellezza, Micaela, con un altro film che piacerà molto, e si tratta di X-Men, le origini, Wolverine. Nel cast troviamo Hugh Jackman nei panni del protagonista. Ecco, bene, chiusura in bellezza proprio perché c'è Hugh Jackman, Franco. Comunque, dai primi trailer è davvero irriconoscibile, è assolutamente diverso almeno dal film Australia con la bella Nicole Kidman. Qui è un giovane Logan, è mostrato circa 17 anni prima dell'accoglienza nel gruppo degli X-Men e quindi anche in questo caso si tratta di un prequel. Hugh Jackman è un giovane Logan, mostrato circa 17 anni prima dell'accoglienza nel gruppo degli X-Men, e il Logan raccontato in questa pellicola è un mutante innamorato della Volpe d'Argento che però viene uccisa da un oscuro assassino e da qui parte la vendetta del revenge di Wolverine. You're alive. Your father. The wars. Knowing that the woman you loved hunted down. I can make all this go away. Putting together a special team. E con il trailer di Wolverine, il nuovo capitolo di X-Men, noi chiudiamo questa edizione speciale di Trailer USA. Vi abbiamo raccontato alcuni dei film che incontreremo poi nel nostro percorso del 2009 qui alla Rosa Purpura con Micaela Bellisario. Ciao Micaela. Ciao Franco, e a questo punto un augurio a tutti i nostri ascoltatori. Per prima cosa incomincia a guardarsi un po' intorno. Come vede ci sono erbacce che spuntano da tutte le parti. Visto quante erbacce? Ha visto anche le crepe sul muro? Visto quante crepe sul muro? Allora, andiamo in riva al mare. Così non perdiamo altro tempo. Dai, venite. Quello che abbiamo ascoltato era un passaggio di un film che non è esagerato definire mitico della filmografia di Pupi Avati, ovvero Festa di classe, un grandissimo Carlo delle Piane, il clima di un autobiografismo universale, capace di parlare a tutti, capace di raccontare una generazione, quella dei giovani del dopoguerra, stregati dalla musica, dall'amore, dalla voglia di vivere in maniera più spensierata e più libera. E le musiche che state ascoltando invece, che sono quelle del nuovo film di Pupi Avati, Gli amici del bar Margherita, in uscita in questo 2009, di cui si occupa questa puntata speciale della Rosa Purpurea di Capodanno. Musiche d'autore, perché composte da Lucio Dalla, tutte le musiche del nuovo film di Pupi Avati. Protagonista, dicevamo, un bar, quello del titolo, un bar che veramente c'era, esisteva nella Bologna della gioventù di Pupi Avati, della sua adolescenza, era praticamente di fronte alla casa del regista bolognese, che ha voluto un po' ricostruire quella fauna particolare. Chi ha frequentato i bar comunque anche negli anni a venire, negli anni 60-70, ricorda che nel bar c'erano delle gerarchie ben fisse, dei personaggi da rispettare, c'erano quelli un po' magari da sfottere, insomma era un microcosmo molto particolare quello del bar di quegli anni. C'è un cast ancora una volta collettivo, come nel caso del film di Michele Placido, Il Grande Sogno, Diego Battantuono, Laura Chiatti, Fabio De Luigi, Neri Marco Re, Luigi Locascio, Gianni Cavina, Katia Ricciarelli, ancora una volta con Pupi Avati. Davvero un cast collettivo corale per una commedia che si preannuncia come sempre toccante e ironica al tempo stesso, come capita spesso nel miglior cinema di Pupi Avati. E allora andiamo ad ascoltare l'intervista con il regista bolognese. Il bar di Pupi Avati, Il figlio illegittimo del duce di Marco Bellocchio, Il 68 di Michele Placido, dopo il 2008 del cinema d'autore dei giovani, Garrone, Sorrentino, il 2009 si preannuncia come l'anno dei grandi maestri del cinema italiano. Beh, non so se siamo da definirsi grandi maestri, sicuramente è, grazie a Dio, un cinema che non guarda soltanto necessariamente puntigliosamente al presente, ma guarda anche un po' al passato. Cioè io credo che il presente lo si possa considerare, valutare, deprecare se lo si compara al passato, ma se non si ha un'unità di misura che da qualche parte si stabilisce che era meglio o che era peggio, ecco, è anche difficile rammaricarsi più di tanto. Io credo che il cinema è stato grande, il nostro cinema, quando riusciva in modo impudico a occuparsi di tutti i tempi, di tutti gli spazi, di tutti i generi. Oggi c'è stata una sorta di autocensura prodotta anche da una critica inibitoria, da una cultura un po' provinciale, un po' asfittica, che ha fatto del presente il luogo di ogni considerazione, in cui ogni valutazione poteva essere fatta. Ecco, il fatto che Bellocchio, Placido rimettono in qualche modo, ci riraccontino dall'odio il 68 o il fascismo, io l'abbia fatto col papà di Giovanna, adesso col... insomma, voglio dire, mi sembra che poi convivendo con altro cinema che invece puntigliosamente e puntualmente si occupa del presente, mi sembra che sia finalmente allargarsi e aprirsi ad altre opportunità. Pronto, parlo col servizio percorribilità strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTI, come Udine Torino. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Era una delle straordinarie maschere di Carlo Verdone, un altro grande protagonista della commedia italiana anche in questo 2009, come attore prima che come regista. Infatti Carlo Verdone sarà fra gli Italians di Giovanni Veronesi insieme a Riccardo Scamarcio e Sergio Castellitto, un film che racconterà i vizi e le virtù degli italiani all'estero, forse il modo migliore, più puro per riconoscere le stigmate dell'italianità è quello di vedere gli italiani protagonisti e in azione fuori dal proprio territorio. Ascoltiamo l'intervista con Carlo Verdone. Carlo Verdone, 2009 che si apre, tu cosa ci stai preparando in questo 2009? Ma io 2009 uscirà il film di Giovanni Veronesi, Italians, dove faccio un ruolo importante nella seconda parte, o il secondo episodio, credo di averlo fatto nel migliore dei modi, insomma. E poi inizierò a girare il mio, che non ha titolo, c'è soltanto l'attrice protagonista, che è Laura Chiatti, però saremo anche un gruppo, direi, abbastanza folto, quindi un film anche corale. Tu sarai anche fra gli attori. Regista e attore, certo, e sceneggiatore. Senti, auspici invece in generale per il cinema italiano? Si sentono un po' di voci discordanti, ripresa, ma no crisi, cos'è invece? Ma guarda, la ripresa c'è quando ci sono dei bei film che piacciono al pubblico. Il dato interessante di quest'anno è che anche dei film più difficili, più complicati, ecco, non proprio commerciali, hanno finalmente creato un filo che univa lo schermo allo spettatore, quindi sono stati accettati dal pubblico anche film come Caos Calmo, Il Divo, soprattutto Gomorra, che sono stati dei splendidi film, veramente splendidi. Quindi è stato un anno eccezionale. Io credo che dipenda molto dal film. E quando gli autori azzeccano il film e le cose vanno bene, diciamo, siamo usciti dalla crisi, però in realtà non è che c'è un cinema molto compatto, il nostro non è un cinema compatto, dipende dalle opere che si fanno. ci sono delle annate che le cose vanno bene, delle annate che vanno meno bene. Rinascita, ormai tutti quanti campiamo un po' anno dopo anno, giornata dopo giornata. Adesso anche noi ci troviamo a fronteggiare questa crisi economica che chiaramente, certo, qualche percentuale di spettatori lo porterà via, è ovvio. Non tutti hanno i soldi per poter andare al cinema più di un tot volte, però sta anche a noi rimboccarci le maniche e cercare di fare il meglio, il possibile per mantenerci, insomma, una percentuale alta di spettatori ancora in sala, ecco. E prima di passare ai saluti finali, per i quali vi abbiamo riservato Ficarra e Picone, andiamo a dare un'occhiata a questo ultimo colpo di reni della battaglia del botteghino, perché è difficile in queste settimane fare classifiche aggiornate, perché ogni giorno è un giorno importante in termini cinematografici. Si sono susseguiti Natale, Santo Stefano, sabati e domeniche, e poi ancora adesso la giornata odierna, Capodanno, e ancora un weekend alle porte. Insomma, la classifica subisce scossoni giorno per giorno, e ogni giorno è buono per andare al cinema. Lo stanno dimostrando però gli incassi globali, una valutazione si può cominciare a fare. È un anno da record, davvero, al botteghino, il Natale scacciacrisi, lo hanno già chiamato i giornali. Si sono incassati nel solo giorno di Santo Stefano, pensate, quasi 11 milioni di euro nei cinema italiani. E per quanto riguarda la battaglia fra i film, al primo posto ci sarebbe Natale a Rio con quasi 15 milioni e 600 mila euro, al secondo Madagascar 2 con 15 milioni e 100 mila euro. Scontro fra titani, ma raramente, ricordiamo, negli ultimi anni due film usciti il 19 dicembre, quindi proprio in prossimità di Natale, che avrebbero portato a casa incassi così, così copiosi. Il terzo posto al momento è del Cosmo sul Comò con 8 milioni e 700 mila euro. Lusinghiero anche il risultato al botteghino di Aldo, Giovanni e Giacomo, che con il loro ultimo vero film, Tu la conosci Claudia, non avevano incontrato così tanto successo, anche se era uscito in un momento diverso della stagione. Seguono poi i 3 milioni di euro del Polpettone Melò come un uragano, il milioncino di The Spirit, film uscito il giorno di Natale, che quindi ha, diciamo così, è mancato dalle sale per almeno una settimana rispetto ai concorrenti, e ancora il cinema d'autore Come Dio Comanda di Salvatore, si è già portato a casa 2 milioni e mezzo di euro. E le migliori medie per sala sono invece quelle del Bambino con il pigiama righe e di The Millionaire. Questo riallacciandoci al tema del Natale d'autore che avevamo già affrontato la scorsa settimana nella puntata speciale di Natale. Detto questo, da queste cifre possiamo tirar fuori almeno due morali. Una è che lo spazio per il cinema comico non sia assolutamente esaurito, che lo sdoppiamento dei cinepanettoni con Boldi che esce a novembre e De Sica che esce a Natale sta facendo bene entrambi, ma che c'è stato spazio, tanto spazio, anche per il Cosmo sul Comò, che insomma un po' cinepanettone lo è anche lui. E la seconda cosa è che forse in tema di animazione è stato lasciato troppo spazio a Madagascar 2, che è uno strepitoso film, ma forse casa Disney in questo caso ha un po' sbagliato i calcoli per una volta, capita anche ai giganti, perché far uscire Wall-E e Bolt alla fine di novembre o all'inizio di dicembre e lasciare poi sotto Natale terreno libero alla concorrenza della DreamWorks con Madagascar 2, che sta portando a casa 15 milioni di euro, beh, forse c'è qualcosa da rivedere proprio nella programmazione. Fine della parentesi sugli incassi, che però, come sapete, qui alla Rosa Purpurea seguiamo sempre con grande attenzione, perché ci danno comunque uno spaccato del polso e dei gusti del pubblico, e in attesa che qualche film del 2009 faccia exploit di questo tipo, noi ci prepariamo al gran finale di questa puntata. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Stanco? No, oggi no. Erano Ficarra e Picone in una delle loro scenette, dei loro sketch più famosi, quello della panchina. È diventato quasi un modo di dire popolare. Stanco? No, oggi no. E Ficarra e Picone hanno già avuto il loro battesimo del fuoco al cinema con il 7 e l'8, che fu anche abbastanza apprezzato dalla critica, e adesso la loro comicità surreale torna nel 2009 con un film che si intitola La Matassa. Non si sa molto di più di questo film, si sa solo che è la storia di due cugini alla lontana che si ritrovano dopo 20 anni di incomprensioni. Sarà un sacerdote molto particolare interpretato da Pino Caruso che cercherà di riavvicinarli. E allora noi vi lasciamo con un caloroso e sincero augurio di buon anno, buon 2009, un 2009 speriamo anche all'insegna del cinema. Certo, noi qui alla Rosa Purpurea ci saremo, come sempre, sabato alle 18, domenica alle 9 del mattino. Gli auguri di Ficarra e Picone. Sentite, giusto un auspicio per questo 2009 e su questo titolo almeno, sta matassa, come è venuta fuori? Che sia un 2009 meglio del 2008 e peggio del 2010. Ti piace? È la matassa che sia una matassa che cominci nel 2008 e non finisca fino al 2020. Ho visto, da quello che abbiamo visto, che si tratta di una storia dove c'entrano dei vecchi che stanno morendo e che si sposano con delle signorine molto belle. Tu tenti in maniera, come dire, di farmi dire la trama, ma non te la posso dire. La trama non te la posso dire. Non parlare così perché ti aumentiamo l'IVA pure a te, te lo sto dicendo. Tu che radio sei? Radio 24. Perfetto, Radio 24. 9, poi Radio 24. Aumentiamo l'IVA alla Radio 24. Alla una telefonata. Al 24%. 24, glielo facciamo al 24%.